perché invece la scelta di Domenico Oppedisano come capo della provincia? Si capisce dalle intercettazioni, dalle conversazioni che ne sono state oggetto, che tra le varie componenti territoriali, tra le quali si formano via via equilibri sempre rinnovati, sempre diversi, c'era la necessità di riconoscere in questo momento la forza di una di queste componenti, di queste articolazioni territoriali, tirrenica. In passato quella che gli stessi 'ndranghetisti chiamano la mamma, per indicare il centro, diciamo, del potere mafioso, era situato nell'ambito di un altro mandamento, che era quello ionico, e questa volta il mandamento tirrenico, diciamo, ha, come dire, preteso un riconoscimento che è stato concesso. Ma dietro questa scelta c'è un maggior peso di un mandamento di una famiglia piuttosto che un'altra? Ci sono casomai in ballo logiche di tipo affaristico? Cioè c'è il fatto che in un determinato momento quella parte rappresenta ed esprime un potere, diciamo, relativo più forte dell'altra e per questo può esprimere il capo? Ci sono le dinamiche di un'associazione, di un'organizzazione mafiosa che è molto complicata. Queste scelte sono legate ovviamente non soltanto alle dinamiche degli affari, ma anche allo stato di grazia delle varie componenti e delle varie famiglie. Quando l'anno scorso, nel 2009, si è formato questo nuovo equilibrio che le intercettazioni ci hanno consegnato, evidentemente c'era la necessità di riconoscere ad una certa zona del territorio, la costa tirrenica, in particolare la piana di Gioia Tauro e quindi con il centro di Rosarno, un riconoscimento di una determinata forza. Tra le varie intercettazioni che sono state registrate, ce n'è una tra affiliati proprio alla società di Rosarno, i quali si scambiano alcune considerazioni e dicono esplicitamente che a Rosarno ci sono un numero assai consistente di affiliati. Parlano di 250 persone soltanto all'interno di un determinato gruppo e poi ci sono gli altri gruppi. Fa riflettere molto sul rapporto di densità criminale che in Calabria caratterizza la presenza dell''ndrangheta. Ecco, la decisione di assegnare e di riconoscere una carica importante come quella appunto del crimine ad una zona piuttosto che ad un'altra tiene conto di tanti fattori, probabilmente tiene conto anche di questo.